Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ero talmente immerso in quell'ardua impresa da ignorare ciò che avevo attorno, e in particolare una giovane assidua viaggiatrice. Insegnante di lettere presso un istituto in località poco prima di Praia a Mare. Sono Giuseppe, vivo a Roma da ormai oltre mezzo secolo. Sono un calabrese trasferito a Roma e ho 85 anni, compiuti 10 giorni fa. Sono pensionato. Ho lavorato per 4 anni con un'impresa di costruzioni, poi venendo qui a Roma ho lavorato presso un ente di ricerca per circa 36 anni. Roma, 1 novembre 1786. Sì, sono arrivato finalmente in questa capitale del mondo. Se l'avessi visitata 15 anni or sono, in buona compagnia, sotto la scorta di un uomo davvero intelligente, mi stimerei certo fortunato, ma poiché devo visitarla da solo e vederla coi miei occhi soltanto, è bene che tanta gioia mi sia stata concessa così tardi. Attraverso le Alpi tirolesi sono passato quasi di volo. Ho visto bene Verona, Vicenza, Padova e Venezia, alla sfuggita Ferrara, Cento e Bologna, Firenze appena appena. L'ansia di arrivare a Roma era così grande ed aumentava talmente ad ogni istante che non potevo più stare fermo. E a Firenze non mi sono trattenuto che 3 ore. Eccomi ora a Roma, tranquillo e a quanto sembra acquietato per tutta la vita. Poter contemplare coi propri occhi tutto un complesso del quale già si conoscevano interiormente ed esteriormente i particolari è, direi, quasi come incominciare una vita nuova. Tutti i sogni della mia giovinezza ora li vedo vivi. Le prime incisioni di cui mi ricordo mio padre aveva collocato in un'anticamera le vedute di Roma. Ecco, ora le vedo nella realtà. E tutto ciò che da tempo conoscevo in fatto di quadri e disegni, di rami o di incisioni in legno, di gessi o di sugheri, tutto ora mi sta raccolto innanzi agli occhi. E dovunque io vada, trovo un'antica conoscenza in un mondo forestiero. Tutto è come lo immaginavo e tutto è nuovo. E quanto è anche moralmente salutare, per me, il vivere fra un popolo dotato di tanta sensibilità, sul quale si è tanto parlato e tanto scritto, e che ogni straniero giudica secondo il criterio che egli porta con sé. Io perdono a tutti quelli che criticano o condannano questo popolo. Esso è troppo lontano da noi. E al forestiero costa troppa fatica e troppa spesa l'avere contatto con lui. Voglio rileggervi queste tre righe che dicono il vivere e quanto è moralmente salutare per me, eccetera, eccetera. Un popolo sul quale si è tanto parlato e tanto scritto e che ogni straniero giudica secondo il criterio che egli porta con sé. Goethe sta parlando degli italiani, che sembra il modo in cui gli italiani parlano degli stranieri quando escono. È il 1786 ed è il pezzo del viaggio in Italia di Goethe in cui lui arriva a Roma e ne parla come della città più bella del mondo, evidentemente. La amava, la immaginava da una vita e finalmente ci arriva. Non l'ha mai vista in internet, non l'ha mai cercato Roma su Google Immagini, quindi ci arriva per la prima volta e impazzisce per questa città. E dice, parla degli italiani dicendo gli italiani sono troppo lontani da noi e al forestiero costa troppa fatica e troppa spesa avere contatto con loro e poterli raccontare. Ripeto, tutti i giorni sto leggendo un pezzo del viaggio in Italia di Goethe in questa settimana in cui parliamo ovviamente di viaggi. Ma questa puntata, la puntata che racconta la storia di Giuseppe, è una puntata ancora particolare, perché si parla di un viaggio, ma è un viaggio in treno, un viaggio da pendolari, è un andata e ritorno. Sono quei viaggi che facciamo tutti i giorni, che insomma i più fortunati riescono a non fare, oppure i più fortunati riescono a fare, se gli piace, fare un'ora di treno o due al giorno. E lì si fanno degli incontri, si incontrano delle persone, quindi la storia in sé non è eccezionale, straordinaria. Però avviene nel 1956 ed è veramente un altro mondo. Sono 60 anni fa, Giuseppe è un giovane, sta per sposarsi e si invaghisce di una donna. Non lo racconterà mai a nessuno, eppure di quella donna lì si invaghisce e il modo in cui loro affrontano questo rapporto è veramente un viaggio nel tempo. Siamo nel sud Italia, siamo a metà del secolo scorso e ascoltate questa storia, questo è veramente un viaggio incredibile. Avevo 27 anni nel 1956 e dirigevo, per conto di un'impresa edile di Paola, la costruzione di un capannone industriale a Praia a Mare, ridente località sulla sponda tirrenica della Calabria settentrionale. Viaggiavo tutti i giorni con il treno delle Ferrovie dello Stato che copriva il percorso di circa 100 km in poco più di un'ora. Un pendolino per studenti, pochi impiegati e avventori locali. Il treno, composto da due carrozze passeggeri e una per il servizio postale, si fermava nella stazione di Paola. Aspettava l'arrivo del treno da Cosenza, la coincidenza dei direttissimi provenienti da Roma e da Reggio Calabria, e distribuiva i passeggeri lungo l'intera tratta Paola-Sapri, collegando così Calabria, Basilicata e Campania. A 27 anni, come ho detto, avevo ricevuto l'incarico di dirigere la costruzione di un capannone industriale a Praia a Mare. E la cosa è durata per circa 5-6 mesi, non ricordo, e ho fatto il pendolare. Un mezzo ideale per la lettura, il ripasso delle lezioni per gli studenti o il sonnecchiare per compensare la levataccia mattutina. Io utilizzavo le ore di viaggio studiando estimo, ovvero ciò che la scuola non fornisce, al di là delle nozioni fondamentali di questa complessa ma appassionante disciplina. Studiavo per svolgere l'incarico professionale assunto, in verità con eccessiva leggerezza, relativo alla valutazione dei beni patrimoniali del convento dei frati francescani di Paola. Un impegno che mi tenne occupato per tutto il tempo impiegato a costruire il capannone a Praia Mare e che alla fine mi fruttò più soddisfazioni professionali che quattrini. Ero talmente immerso in quell'ardua impresa da ignorare ciò che avevo attorno, e in particolare una giovane assidua viaggiatrice, insegnante di lettere presso un istituto in una località poco prima di Praia Mare. L'insegnante veniva a giorni alterni da Cosenza e sul pendolino cercava posto nelle mie vicinanze perché, lo appresi più tardi, la mia presenza silenziosa e impegnata le trasmetteva tranquillità e senso di protezione. Distanti, ma sempre a vista, eravamo entrambi intenti nella lettura e solo di tanto in tanto gli sguardi si incontravano pur senza particolari emozioni, da parte di lei, perché era molto riservata, da parte mia, perché ero sentimentalmente impegnato e poi perché il lavoro del cantiere mi concedeva poco tempo utile per altre attività. A disturbare quella pace serena e operosa intervenne, dopo qualche tempo, un'amica della mia infanzia, insegnante di musica con poche ore settimanali di supplenza nello stesso istituto della collega di lettere, con la quale legò una stretta amicizia, come è normale tra colleghe nelle condizioni di condividere tempo e viaggi. La nuova presenza, maestra di pianoforte, allegra e chiacchierona, ci presentò, ci esortò a viaggiare vicini e mi impegnò oltretutto a occupare i posti sia nei viaggi di andata sia in quelli di ritorno. E quel che fu peggio mi costrinse a rimandare lo studio dell'estimo in ore meno comode della giornata. Io, già promesso sposo alla donna che sposai qualche anno dopo, mi comportavo con la giovane compagna di viaggio in modo irreprensibile, ponendo freni a ogni aspettativa di lei, desiderosa sempre più di un legame più solido della semplice amicizia. Quando si viaggiava in tre si discorreva di tutto e si rideva tanto, ma quando ci trovavamo soli, con lei ignara del mio stato sentimentale ed io ritroso a parlarne, i dialoghi tendevano ad approfondire la conoscenza reciproca e giorno dopo giorno avvertivo di deviare dai binari del mio ormai consolidato percorso affettivo. Nella maniera più assoluta, perché ero già promesso sposo, difatti sposai 2 anni dopo la donna con cui ero fidanzato e quindi non potevo corteggiarla, quindi non ci pensavo nella maniera più assoluta, è stato il caso a farci conoscere. Gli sguardi, i sospiri e i sorrisi tra noi erano gli accenti di un linguaggio muto quanto eloquente. Lei prese a viaggiare con più frequenza, motivando maggiori impegni didattici. Io le conservavo il posto accanto al mio anche quando non viaggiava e se non la vedevo o tardava, la cercavo dappertutto, morso dalla gelosia. Mi sentivo sull'orlo di un vuoto, incurante del pericolo. Pendolavo tra due legami affettivi senza dare nulla di me né l'uno né l'altro. Mi sembrava di essere messo alla prova su una scelta di per sé infedele e blasfema. La sera rientravo a casa senza fermarmi dalla mia futura sposa, accusando stanchezze e malesseri del tutto estranei al mio stato fisico. La notte non dormivo. Di giorno ero nervoso e non ragionavo. Litigavo per niente, con tutti. Avevo i nervi a pezzi. Mi fu propizia e quanto mai gradita la febbre influenzale nota come prima asiatica, la quale mi tenne a letto e lontano dagli impegni di lavoro per circa 3 settimane, compresa la ricaduta per la sopraggiunta bronchite. A fare il resto ci pensò l'amica, insegnante di musica, colpevole e inconsapevole artefice di quanto mi stava accadendo, la quale rivelò alla collega, preoccupata per la mia lunga assenza, tutto ciò che non ebbi il coraggio di dirle. E lì il sipario calò. Non senza sofferenze. Calò su quella breve storia di un amore non dichiarato, ma in procinto di esplodere. Viaggiai poi qualche giorno ancora, il tempo necessario per fare alla committenza la consegna dell'opera realizzata a Praia Mare, ma non vidi né più cercai la giovane e graziosa insegnante di lettere, e il tempo, lentamente, cancellò tutto. O quasi. Che cos'è? E oggi è vero che noi in questa settimana raccontiamo storie di viaggi. Oggi però, e questa è di fatto una storia di viaggio, perché è la storia di un pendolarismo, no? di una persona che se ne sta sul suo treno e va a lavorare. Questa storia, la storia di Giuseppe, però noi l'abbiamo amata tantissimo perché racconta molto di più. Racconta certo di un viaggio, ma racconta di una persona, di un'epoca e di un modo di vivere la vita e i rapporti che sono solo di 50 anni fa, 60 anni fa, ma sembrano veramente di un'altra epoca. Ed è per questo che siamo molto grati a Giuseppe. Pronto, Giuseppe? Sì, sono qui, grazie. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, grazie. È un piacere parlare con te. Dove ti trovi, Giuseppe, in questo momento? In questo momento a casa, a Roma. A Roma, perché tu raccontaci un po', diciamo, come se fosse una sorta di veloce riassunto. Cosa è successo nella tua vita dopo il racconto che ci hai fatto ad oggi? Da quel racconto, io dopo 2 anni sono venuto a Roma, ho lavorato presso un ente di ricerca per 34 anni e quindi adesso sono in pensione, vedovo, 85enne. Hai 85 anni, Giuseppe. Ma sì, compiuti già da 10 giorni. Beh, comunque auguri, poi dalla voce sembra che ne hai 45, quindi... Sì, solo quello, è rimasto giovane. Grazie. Senti, comunque. Quindi hai dei figli, immagino? Hai... Sì, 2 figli e 2 nipoti. Che vivono a Roma? Vivono lì vicino? Che vivono sì a Roma, però, sì, nelle mie vicinanze. Però tu sei originario esattamente di dove, Giuseppe? Di Paola. Di Paola, proprio. Di Cosenza, Calabria. Che io mi ricordo la prima volta che sentii il nome Paola, lo sentii sul treno che andava verso Sibari in Calabria, che si fermava in questo posto che diceva, oh, ma esiste un posto che si chiama Paola con un nome di donna. Quanto è grande più o meno Paola? Paola, quando la lasciai io, aveva 12-13 mila abitanti, adesso non so quante ce n'ha. Credo che si sia spopolata ancora, perché... la gente, i giovani scappano, vanno via, come d'altra parte ho fatto anch'io. Chiaro. E quindi sì, credo che sia un po' svuotata. Giuseppe, lo dicevo prima, le parole che tu usi in questa storia sono proprio le parole di una persona che, come dire, che ha imparato l'italiano in un certo modo e che quindi racconta con una dovizia di particolare e una precisione anche che effettivamente, guarda, te lo dice uno che legge una cosa tipo 3-4 mila racconti all'anno insieme a Tiziano Bonini, non si trova molto facilmente. Ma al di là dello stile, veniamo alla storia. Tu non hai mai più visto quella ragazza? No, nella maniera più assoluta. Io 2 anni dopo sono venuto su a Roma, ho sposato tua moglie, la certo. donna con cui ero fidanzato, quindi non ho più visto, ma è sfuggita a lei, perché una volta che seppe che io ero fidanzato, praticamente fuggì, scappò. Chiaro. E già questo è un segno dei tempi, nel senso che probabilmente adesso non sarebbe così immediato che una persona scappi quando sa che la persona, un'altra persona di cui è interessata è fidanzata. Uno magari dice, sì vabbè, ma chi lo sa, magari no, se si rimane un po', se si temporeggia un po', magari qualcosa lo portiamo a casa. Invece no, uno sapeva che uno era promesso sposo e quindi grazie, arrivederci. Sì. Giuseppe... L'assenza di mezzi di comunicazione, non esisteva il telefono, il cellulare, non era forse neanche in mente. Certo, e quindi era inventato, quindi... quindi l'unico modo per vedersi era salire su quel treno, insomma. Era salire su quel treno. Però una volta finita l'opera, poi non sono tornato più. Però l'amica che aveva messo in comunicazione, sì, sì. L'hai più vista, l'hai più sentita? L'ho sentita poche volte, vista due o tre volte. Mi riferì appunto che la compagna di viaggio rimase ferita da quelle notizie, eccetera. E poi anche questa amica andò in Canada, si trasferì in Canada. L'ho rivista nel 2004, andai in Calabria e l'ho rivista così. Ma sì, occasionalmente. E invece, perdonami, Giuseppe, insomma, se hai voglia di dirmelo, tu non l'hai mai raccontata a tua moglie questa storia? No, mia moglie non c'è più, comunque sono vedovo da 4 anni ormai. Ok. Ma non l'ho raccontata, no, nella maniera più assoluta. Insomma, quindi permettimi di ringraziarti per averci fatto questo regalo. Di fatto tu però ci hai pensato, nella tua vita è rimasta qualcosa di quel periodo, di quella persona, di quell'incontro? Molto poco, forse è rimasto più il fatto che il lavoro, il lavoro che avevo fatto, che avevo svolto, eccetera. L'episodio è rimasto legato al lavoro, ma praticamente poi era sfuggito. Quello che mi è rimasto è tutto ciò che ho realizzato, sia quello che il lavoro che facevo, lo studio che facevo durante il viaggio, no, per assolvere a un impegno che avevo preso per quella famosa valutazione dei beni patrimoniali del convento che c'è a Paola, insomma. Giuseppe, e quindi quello ti è rimasto, insomma. Mi dici velocemente, poi purtroppo devo salutarti, che cosa hai fatto poi nella tua vita? Dicevi hai lavorato in un istituto di ricerca, di cosa ti occupavi? Un istituto di ricerca, sì. Se posso dirlo è l'Enea. Certo, come no, l'Enea. E cosa facevi 34 esattamente? 34 anni lavorato lì. E cosa facevi esattamente, Giuseppe? Geometra, mi sono occupato delle costruzioni dei reattori, ma non solo dei reattori nucleari, anche di tutti gli altri laboratori ed edifici, perché la mia assunzione praticamente avvenne durante il periodo dell'acquisto del terreno e quindi dell'inizio realizzazione del centro di ricerca che è stato realizzato nei pressi del lago di Bracciano. Ah, ok, quindi in zona Roma. Giuseppe, io purtroppo devo lasciarti, ma ti sono molto grato davvero per questa storia e per questa chiacchierata. Ti faccio i miei in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie e tanti auguri a te. A presto, ciao Giuseppe, grazie. Ciao. Ovviamente la storia di Giuseppe ha dato la stura sia sul profilo Facebook sia i nostri SMS per raccontare di quanti incontri siano stati fatti in treno tra pendolari e soprattutto di quanto un tempo fosse diverso, la morale, eccetera eccetera. Io ho voluto semplicemente prendere la storia di Giuseppe e la voce di Giuseppe per com'era, perché racconta veramente di un mondo delle persone che appartenevano a quel mondo 60 anni fa. Se avete voglia di leggere storie come quella di Giuseppe, noi ne abbiamo, le abbiamo raccolte nel nostro ebook, che è sempre scaricabile gratuitamente, lo ripeto, dal sito di Radio 24 oppure dalle varie piattaforme. Avete tutta l'estate davanti, oggi è il 23 di luglio, avete ancora una settimana di luglio, poi tutto agosto. Se pensate per partire per le vacanze, vi succederà sicuramente qualche cosa a cui non siete abituati. Se avete voglia di raccontarcelo, inviatecelo in una pagina a voi siete qui @ radio24.it. Noi tutti i giorni raccontiamo storie da settembre, di nuovo alle 16 in diretta. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Ringrazio soprattutto Giuseppe, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.